Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Gli vanno bene e oggi ne ho raccolti 25. Sono i primi e questa sera con mia moglie me li mangio bolliti con l'olio e il limone, perché l'asparago mi ha colpito, perché io non l'avevo mai visto, seppure mangiato, fino a 10 anni fa. Invece mi sono fatto una piccola asparagera e gli asparagi, se ti siedi nell'angolo, li vedi crescere quando spuntano. Sono una cosa interessantissima e poi sono buoni. Ragazzi, qui non c'è un cazzo da ridere, perché quest'uomo che avete sentito, che qualche settimana fa qui alla Zanzara diceva che si era dato per il momento, anche se non voleva rinunciare alla politica, alla raccolta degli asparagi, il suo nome è Claudio Scajola, beh, è stato arrestato questa notte, stamattina più o meno. Quando è stato arrestato? Stanotte? Stamattina prestissimo. Prime luci dell'alba. Perché secondo le accuse, certo, secondo l'accusa, anche certo, se i PM dicono di avere prove certe, stava favorendo la latitanza del signor Matacena, ex di Forza Italia, che sta nel Dubai, in Dubai. Esatto. Condannato. Secondo le accuse lo voleva portare a Beirut, anche lui a Beirut. Anche tutti a Beirut, evidentemente lì. Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, insomma, può ritardare l'estradizione. Forse volevano fondare, dicono, Forza Beirut, forse. Ho detto una stupidaggine? No. Pure però noi la prendiamo. Mi dispiace per gli asparagi a me, sinceramente, perché no? Noi non possiamo prendere. Non c'è nulla da ridere. È strano perché lui, appena, come dire, scriminato dalla vicenda della casa a sua insaputa, gli arriva un macigno ancora più grosso, che è quello di aver aiutato uno a scappare. L'antimafia, voi, l'antimafia! Berlusconi, Berlusconi. Amico, no, Scajola, lo aveva escluso. No, amico. Conosco, ma. Mi dispiace, che strano. Vabbè. Davanti ai fatti, poi bisogna vedere. Poi, sai, queste cose qui iniziano in questo modo: gli arresti, come oggi la vicenda dell'Expo, no? La cupola che governa, no, che gli appalti. Scusa, fino a questo lo possiamo rivelare. Fino a ieri, lui aveva la scorta del Ministero degli Interni. Lui fino a ieri aveva la scorta del Ministero degli Interni, capito? Poi gliel'hanno tolta e alla mattina suona, dico: scusi, signor Scajola, Scajola, sì, venga con noi per cortesia, lo arresta, è incredibile. Berlusconi dice di essere addolorato. Non so per quali motivi possa averlo arrestato e me ne spiaccio molto, anzi ne sono addolorato. Non avevo sentore dell'inchiesta, dice Berlusconi. Non l'ho candidato perché i sondaggi erano negativi. C'era qualche sentore che c'era un'inchiesta in corso? No, assolutamente no, assolutamente. Non è stato candidato perché a seguito di un sondaggio abbiamo rilevato che la sua candidatura ci avrebbe portato a una diminuzione del voto globale dei nostri sostenitori. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Giornata di arresti, giornata di manette in questa campagna elettorale. Come dici? Giornata di arresti, come fosse. Hanno arrestato un sacco di gente. Pazzesco. Tutti i voti per Grillo, tutti i voti per Grillo, perché questo, sono arresti bipartisan. Hanno arrestato pure l'ex primo Greganti, il signor G, il compagno G, che risbuca fuori anche lui. E qualche imbecille già sudito gli dice: ah, adesso vediamo se Parenzo difende gli amichetti suoi. Mai stato amico di Greganti, mai amico di Greganti. È un po' sgarbialo questo mai amico di Greganti, però, no? Berlusconi dice che sarà santo molto presto. Anche. prigione, in prigione. Ma guardi, io penso che sarò santo molto prima. A prescindere. Perché quello che capiterà circa le situazioni che mi sono state addossate, sì, mostrerà, ritengo, a tutti gli italiani come io sono stato paziente e capace di sopportare delle cose ingiuste che mi sono state rivolte contro. A proposito di Berlusconi, sai che sta progettando il colpo finale, perché la campagna certo ha recuperato qualche cosa, però ancora non decolla definitivamente, no? C'è qualche... Cioè non è che siamo a livelli in cui recupera punti ogni giorno come succedeva l'anno scorso. Beh, domani succederà, domani sarà il giorno clou probabilmente. Beh, però le inchieste giudiziarie di solito lo premiano, comunque è da vedere. Dice che sta studiando tutte le cure per l'Alzheimer. Ma lui? Lui. E mica è medico. Potrebbe essere questa. Ma che vuol dire sto studiando le cure per l'Alzheimer? Senti. Lei ha promesso sorprese a proposito della sua esperienza, appunto, a Cesano Boscone. Ci può anticipare qualche cosa? No, è un segreto assoluto, ma in sintesi, tuttavia, vi dico che sto facendo una ricognizione di tutte le ultime cure che sono state inventate, sì, per dare il modo agli infermi che soffrono di questa grave malattia di fare qualcosa in più di quello che arrivano a fare adesso. Sì. Io ho capito tutto da questa cosa. Secondo me qualcuno gli ha suggerito la cura magica contro, sì, l'Alzheimer. Lo disse, se lei ricorda, si cominciava anche sul cancro qualche anno fa. E te l'ho ripescato. Bravo. Te l'ho ripescato. Marzo 2010. Me lo ricordo. Vogliamo anche vincere il cancro, che colpisce ogni anno 250.000 italiani e che riguarda quasi 2 milioni di nostri cittadini. Ma che mondo è questo? Voglio farti sentire, caro Parenzo, abbiamo già un ospite pronto qui che frigge. Non lo vedo, un siamo in studio, che frigge. Ma non lo vedo. No, non lo vedi perché è collegata, è la radio questa qua. Ah, perché è radio, certo. Sempre la radio. Certo. Ah, la Picerno che torna a parlare degli 80. Ma guarda che sei veramente proprio indisponente. Tutte le cose che sono... Fa la spesa con 80 euro, sì, fa la spesa con 80 euro. No, ma in questo caso non c'è la spesa di 80 ragione, euro. Dice, citando il Censis, sì, che i consumi con gli 80 euro, che non sono 80 euro, aumenteranno più del 15%. In realtà proprio il Censis non dice questo, Bisogna studiare, scusi, per esempio questa, quello però, che ci scusi, racconta non l'accetto, il Censis, non l'accetto proprio. Quello che ci racconta il Censis, che stima un aumento dei consumi pari al 15% per effetto di questo, degli 80 euro che verranno restituiti a 10 milioni di italiani, non è una cifra da poco. C'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo fare? Su, ma non si può insistere su questa cosa che saranno la panacea, aumenteranno i consumi del 15%. Lì c'è una stima fatta nel caso in cui diventeranno stabili, eccetera, eccetera. Beh, diventeranno stabili, ma è questa una è stima, la proposta. Non si può citare il Censis dicendo sicuramente aumenteranno i consumi. Beh, del qualcuno 15%. Una pizza in più la comprerà, ma un paio di scarpe per il figlio, qualcosa fa. Poi dopo è chiaro che non risolve i problemi. Grillo, i giornalisti sono pezzi di merda, senti. Ma basta. Gli economisti vanno in televisione, questi pezzi di merda dei giornalisti, non li... No, ferma! Ho detto pezzi di merda. Ma così? No, mi è scappato. Ritiro. Questi giornalisti, fanno dire agli economisti, questi che non hanno azzeccata una, gli economisti, li fanno dire, non è vero perché c'è la crescita. Direttore? Eccoci! Come andiamo? Andiamo bene, chi è che ce l'aveva con i giornalisti? Grillo. Beppe Grillo, candidati, no? Come tu? Come, scusa? Aspetta, ti richiamiamo. Intorno c'è un mondo che ha già tutto. Era in un bunker, era il direttore. Pier Silvio Berlusconi, spero che Marina non scenda in politica. Non è che entusiasmi quando parla, Pier Silvio Berlusconi. No, a me piace, cioè, non trascina. A me invece piace te moltissimo. Te credo, lavori per Matrix. Moltissimo invece. Che leccaculo che sei, sei veramente un leccaculo. Ma sto scherzando. Pier Silvio Berlusconi, spero che Marina non scenda in politica. Non penso che la politica possa e debba essere fatta a colpi di successione. Per quanto mi riguarda, mi auguro sinceramente di no. Questo lo dico proprio in termini da fratello che vuole bene a Marina. Il nostro amico Tommaso Cerno fa notare una cosa nella vicenda Scajola, che Tommaso Cerno dell'Espresso, certo, sì, che Cerno. C'è un ex capo della polizia che aiuta a un delinquente a fuggire nel caso di Scajola. Un ex, ovviamente, in quanto ex ministro degli interni, io certo. Dico sempre, fosse vero che ha aiutato il signor Matacena a scappare, a trovare Beirut come punto di approdo della latitanza, sarebbe un ex, diciamo, capo dei poliziotti che aiuta un delinquente a fuggire. In qualità di ex ministro dell'interno, certo. Stiamo quindi parlando di un reato mafioso. Politico sostanzialmente, cioè nel senso che un uomo che ha guidato la polizia aiuta un delinquente a scappare, non che sia nuova, però ecco, è inquietante che esista l'idea che chi comanda la polizia aiuta i criminali a scappare anziché aiutare la polizia a prenderli, e dopo magari ci lamentiamo se negli stadi mostrano le magliette con scritto che bisogna liberare questo o quello, perché o no. Servi di Roma fuori. Aia. Marione Borghezio totalmente ubriaco. Ah, certo. Sentite, totalmente ubriaco. Padania. Siamo qua dopo aver bevuto solo inizialmente i primi 5 litri di ottima birra di Strasburgo, birra nordica naturalmente, molto apprezzata anche a Roma. Lazio, nazione, il resto è meridione! Lazio, nazione, il resto è meridione! Guarda oltre i monti! Non vi abbandonerò mai. Invece, beh, ci stavi abbandonando prima sul treno perché stai sul salottino. Sei nel salottino. Ma quanto ti costa sto salottino su Freccia Rossa, Emilio? Su Freccia Rossa, se almeno funzionassero i telefoni. Io ho visto accanto a me una gentile viaggiatrice che ha continuato a parlare per tutto il viaggio al telefono. A lei funziona il telefono, a me nel salottino non funziona. Si vede che io pago con lo sconto, no? Non è vero, pago no, no, sì, ci siamo, come no, ci siamo, certo. Scusa. Senti, ma secondo te, Emilio, tu che insomma conosci Silvio, poi l'hai incontrato anche recentemente, se non sbaglio, no? Sì, sì. Quando, quando l'hai incontrato? A Pasquetta. Quanto sei stato con lui? Alcune ore. Ma da solo? Sì, solo. Beh, questa è già una notizia. Ma è normale, come mai? Sono amici. Ti hanno concesso di vederlo per un paio di ore? Mi hanno concesso, mica gli arresti domiciliari lì e io sono agli arresti domiciliari. Cioè, è capitata una serata durante la quale abbiamo trascorso un certo momento, anzi un certo numero, un certo tempo. Ma vi siete abbracciati? Beh, certo. Non credo che sia necessario abbracciarsi. Siamo amici. Cioè, avete pianto in alcuni momenti, per esempio? No, non c'è da piangere. No, che ne so, ricordando alcune cose, alcuni momenti, i tempi che furono. Abbiamo rimpianto i momenti belli che ci sono stati, sì, dal punto di vista umano e politico, certamente, anche le malinconie per tutto quello che sta succedendo. Ma com'è? È un po' depresso, diciamo la verità, un po' depresso. No, guarda, assolutamente no. No, carico. La depressione per lui non esiste. Non esiste. Lui si è fermato un momento nel preparare la campagna elettorale. Vabbè. Certo, c'ha tutti questi problemi addosso. Per esempio De Gregorio, là, questa storia della compravendita dei senatori. Ma guarda, io un personaggio come De Gregorio ritengo che non abbia il diritto di vivere in una società civile. Addirittura. Oltre che fisicamente, è veramente proprio una persona. Ma dai, ma com'è? Che personaggio è? Che si vede. A me fa, metaforicamente parlando, schifo. No, cioè ti fa schifo. Uno che prende i soldi, si vende, sì, poi si pente, poi prende chissà cos'altro, non so cosa prende, forse qualcosa per dormire o per calmarsi. Sì. E fa che cosa? L'uomo straordinario che confessa, verità, sì, confessa. Che dice il vuoto della politica, ma lui, uno come De Gregorio deve togliersi dalle palle, in senso. Ma cos'è? Cos'è? Come lo consideri? Proprio un... Sei stato alleato di forze. Una persona che si vende, un deputato che si vende, che poi sia vero, non sia vero, non ha importanza, che fa l'eroe, patteggia non so a quanto, intanto si è beccato non so quanti milioni di euro, sì. Personalmente io un personaggio così, io preferisco allora quella persona, non lo so come dire, peggio di... Non è il pentito che poi consente di scoprire qualcosa. Un farabutto. È un farabutto. Senza virgolette. No! De Gregorio è un farabutto. Addirittura, vabbè. Questo soltanto. Senti una cosa, ma soltanto, a proposito di Beirut, eccetera, ma tu consigli per esempio a Dell'Utri di rimanersene lì? Perché la giustizia in Italia, insomma, no, è messa in un certo modo. Cioè, dai un consiglio. Al suo posto che faresti? Al suo posto resteresti a Beirut tutta la vita, no? No, non credo. Ma come no? Io conosco e sono. Ma vai pure tu a Beirut. Perché devi andare a Beirut? Ma sì, ma se ci fosse la condanna. A Beirut a fare compagnia a Marcello, è mio amico. Assolutamente, ma Marcello ha fatto anche la prigione, dai, ha fatto anche. Cioè, una persona che. No, veramente la prigione non l'ha fatta fino adesso. Comunque, vabbè. Sì, è stato, sì, sì. Ma forse nel passato qualcosa ha fatto, adesso non... Non mi ricordo. Una brava persona, comunque, secondo te, tutto tranne che un mafioso. Assolutamente, guarda, se i mafiosi fossero come lui, ma per carità, ma c'è una persona di cultura. Beh, esistono anche i famosi colletti bianchi, della MAI, esistono anche sì, quelli. Va bene, ma sono le invenzioni di noi giornalisti. Beh, anche i magistrati, insomma, i magistrati, tanto, qualche sentenza, qualche caso ogni tanto, insomma, c'è, però. Beh, vabbè, io non ho seguito tutto il suo percorso giudiziario, ero solo e resterò certamente suo amico. Senti una cosa, Emilio, ma Berlusconi con l'Alzheimer, che intenzioni ha secondo te? Cioè di portare una nuova cura? Sì, quasi certamente. Qual è il guarda, cioè quasi certamente lui sta, secondo te? Le persone malate, ha sempre, diciamo, si è sempre interessato, ha solidarizzato in tutta la maniera, anche concretamente. Sì, ma cosa può fare, scusa? Certamente, ma poi la mamma di Berlusconi ha continuato fino alla sua tarda età, eccetera, ad occuparsi delle persone che stavano male. Berlusconi preparerà, sicuramente si è preparato a fare un'opera di assistenza che va al di là delle decisioni della giustizia, di su, di giù, eccetera. Giustizia che poi in questi giorni mi pare che la situazione sia un po' complicata. Cioè, ma che farà? Porterà una nuova cura, secondo te? Sì. Farà di tutto. Lui concluderà questo suo triste momento con delle cose positive che vanno nell'interesse della solidarietà, verso che l'ha sempre fatto. Ma senti, ma alla fine si sposa o no, secondo te? Sì. Una bella domanda. No, non si sposa. Io sono molto amico di Francesco. Sì, lo so, però secondo me non si sposa. Dai, dimmi la verità, non si sposa. No, che ti ha detto a te? Che ti ha detto? No, io non ti ho mai chiesto. Ma figuriamoci se non te l'ha detto, dai, su. No, non me ne ha mai parlato. So che il rapporto fra loro due è di grande affetto e di grande amore. Poi sai, il matrimonio è un legame, non certamente tradisce l'amore. L'amore può essere anche non il matrimonio. Non lo so, guarda, io... Fai una previsione, perché poi dovrebbe, cioè a logica, no? Perché dovrebbe sposarsi? Non ha senso a quell'età lì, cioè, possono volersi bene, non lo so, guarda, oggettivamente, quello che so di certo, no? Che l'arrivo di lei accanto a lui è stato di grande aiuto per lui, anche psicologicamente. Dici. Su questo tra lui, tra lei, senti, dimmi una cosa, ma quando sei stato con Berlusconi c'era Dudu accanto a Berlusconi? Non ho capito. Quando sei stato da solo con Berlusconi, c'era Dudu? Quando sono stato lì la sera di... Sì, dimmi. C'è sempre. Ed è un cane straordinario. Perché? Che ha fatto? Ma sì, perché lui, ma tutti, guarda, gli animali hanno una sensibilità. Certo. Lui? Sicuramente è una fedeltà. Che faceva? Che faceva? Allora, lui, Dudu, se vede una persona che gli sta simpatica, allora fa una sorta di balletto. Va bene? Balletti, come si... ti sta vicino. Se una persona invece annusa che di quelle tipo De Gregorio, ma è una battuta, De Gregorio non si avvicina neanche un chilometro, allora comincia ad abbaiare. Ah, lui con te che ha fatto un balletto, con te si è messo a fare il balletto. Io ero terrorizzato, per fortuna ha fatto un balletto. Fa i balletti, si mette a fare i balletti. Beh, i balletti, siamo al top. Senti, ma Marina scenderà in campo alla fine? Dicono di sì, Allora, sempre di più quando lui ha fatto, dico una cosa che è un'ipotesi, lui ha fatto alcuni riferimenti a novità. Allora, no, ma secondo te, dimmi la verità, Marina, adesso conoscendo l'ambiente, Marina sarebbe, adesso sembra un atto di ruffianeria, conosco Marina. Beh, Marina, no, tanto no. Tempo. Poi Marina, da te atto di ruffianeria, per carità. Ma sì, tu dici ruffiano più, ruffiano meno, va bene lo stesso. Ma sì, ma dai, è passato. Comunque, Marina potrebbe esserlo, e non è escluso che Berlusconi, se decidesse di affidargli Forza Italia, Però attenzione, perché lui ieri ha fatto anche un riferimento importante. Vabbè, senti, dimmi una cosa, ma l'allenatore del Milan chi sarà? Ah, chi sarà? Sì. Mo mi cacciano, Pippo Inzaghi. Pippo Inzaghi, cioè Seedorf lo cacciano. No, non lo so se lo cacciano. No, vabbè, però cioè, Inzaghi ragazzi, al Milan. Mi sembrate quelli della Zanzara, usate questi termini. Vabbè, lo cacciano, lo mandano via, comunque Inzaghi. E mi ripeti, mica è stato cacciato, è stato leggermente allontanato. Dica a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda. Oh, ti ricordi i Falchetti? I Falchetti, caro Parenzo. Come no? I mitici i fratelli, no? Erano anche. I fratelli Zappacosta, portati dalla Santanchè, sì, riuniti dalla Santanchè quando la Santanchè era potente nel partito. E li portò addirittura a incontrare Berlusconi. Dovevano essere uno dei fulcri. Sì, la freschezza, sì, della Senti nuova. Senti uno dei due Zappacosta dice: "Sembra un ragazzino Berlusconi, è sempre carichissimo." Sono un ragazzino, era carichissimo. Ha scherzato anche su questa sua condizione, cioè una persona che ti trasmette un entusiasmo, ha detto erano le 11:20, ha detto -20 a San Vittore, cioè parla, è sempre molto ironico, scherzoso, allegro eccetera, e poi soprattutto ci ha caricato. Ci ha carichiato. Stiamo al top, sta. Non stare lì così, mettiti comoda, sull'erba brutto spesso il Oh, è tornato Calderoli, eh? È tornato Calderoli a dirigere il Senato. Tornato là, è lui che briga per la riforma del Senato. Senti che cosa dice: all'asse Berlusconi-Renzi ho dato una bella ripassatina. Io credo che ciascuno di noi deve dimostrare la propria posizione. Io l'ho fatto in questi giorni rispetto alle riforme. Mi è piaciuto molto il paragone fatto da Morra dell'asse da stiro di Berlusconi Renzi. Non avevo dubbi. L'altro giorno gli abbiamo dato, visto che prendeva una brutta piega, una bella passata con la stirella con gli ordini del giorno. Si vanno in televisione questi pezzi di merda dei giornalisti, non li. No, ferma! Ho detto pezzi di merda. No, mi è scappato. Ritiro. Questi giornalisti fanno dire agli economisti, questi che non hanno azzeccata una, gli economisti, li fanno dire: non è vero perché c'è la crescita. Poi se la figlia con solo 24 ore, no, giornale, radio, non so, ma sentiamo. È nostra. E allora finanziamo l'Unità con 6 milioni, il giornale con 4, il Foglio con 5, con 1,5, 2, con tutti i giornali, con solo 24 ore, con 20 milioni. Allora, dove mai nel mondo c'è una Confindustria nel mondo che abbia una radio e un giornale? Non esiste. O fai l'editore puro o se no cedi le quote. Faremo la prima cosa così. Se vinciamo noi, ma tutti a casa mandiamo. A calci nel sedere, ma siete morti, tecnicamente morti. Ma scusi Grillo, ma non. Ma intanto ma chi l'ha detto che la radio è un giornale? Ma chi l'ha detto? Ma un giornale, ma ti pare che uno fa una radio un giornale? Gli imprenditori, ma si può fare, si può fare. Ma fa schifo, ma solo in Italia, in Germania non c'è. Non esistono giornali in Germania. Cioè non esiste la radio di Confindustria, ma dice non lei. Esiste la Confindustria, non esistono imprese. Bah. Non servono le imprese. Devi produrre a casa, a chilometro zero. Non esiste. Cosa uno produce a casa nel giardino, no? Con le feci. Le feci sono energia pura. Sul TG1 mi inquadrano solo quando dico minchia. Il solito servizio del TG1 che mi inquadrano da sopra, mi fanno vedere da sotto, grido, dico due parolacce, ho detto la minchia, hanno preso quello lì della minchia e l'hanno mandato al TG1, Grillo dice sempre le parolacce. Su questo però, Poi da un vaffanculo a quelli del TG3. E vedi, poi dove? Aspetta. Ma se ci metti un banchiere se ne batte i coglioni perché ti parla di spread e di tassi dell'ITR AMT, vaffanculo! Questo l'ho detto per il TG3. Oh, negli Stati Uniti sostiene Grillo, le aule non sono fatte di pareti ma di pixel. Di? Secondo lui, in tutti gli Stati Uniti. Sì. Pare negli Stati Uniti le scuole hanno un Kindle che hanno memorizzato 1000 libri. In una roba così, 1000 libri. Con gli insegnanti, lavagne elettroniche. Ho visto aule che sono l'aula. Non ci sono i muri, il pavimento e il soffitto. Sono pixel. Pixel vuol dire che gli studenti sono dentro. Se fanno una lezione di biologia sulla cellula, l'aula si trasforma in una cellula. Ma è chiaro, ma ovunque è così. Ma le pareti ci saranno da qualche parte. Fatte di, non ci sono, fatte di feci. E se piove? Io, l'anno scorso sono andato in Svezia, non sapete un cazzo. In Svezia le case sono fatte con le feci. Ma dai, su. Con le feci, lo fanno ovunque. Pareti di feci. Ma guardate che lo fanno anche in Germania. Germania, certo. Case fatte di merda. Io non ho capito questa cosa qua dei pixel, dei pixel. Cioè, non ci sono pareti. Non ci sono pareti, tutto aperto, trasparente. Quando piove? È la natura, piove ovunque. Deve piovere, perché come fai a fermare la pioggia? È innaturale costruire delle case. Ma come innaturale? Non è normale. La sua moglie che dice? Ma mia moglie non è andata via da quando ho tolto la pareti. Ho a casa mia, ho distrutto tutto, ho tolto le pareti. A gennaio faceva freddo, hanno preso la broncopolmonite. Mia moglie se n'è andata. Io gli ho detto, ma la fanno anche in Germania. E mia moglie ha detto, ma vaffanculo Beppe, ma qui piove a gennaio. Ma c'erano i pixel. E io gli ho detto, ma in Germania c'è il pixel, non c'è. Bellissimo, con l'acqua dentro così ti fai la doccia. Lo fanno ovunque, cretino, ovunque. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Nuova bufera su Expo 2015. In carcere il direttore Paris, Primo Greganti, gli ex parlamentari Grillo e Frigerio. Con gli ultimi arresti di Expo torna a Milano il clima di Tangentopoli, alla ribalta nomi eccellenti coinvolti in Mani Pulite. Arrestato a Roma l'ex ministro Claudio Scajola, avrebbe aiutato nella latitanza l'ex deputato Amedeo Matacena. Berlusconi, sono addolorato. Renzi, la politica non metta becco sulle indagini, massima fiducia nella magistratura, con Berlusconi non faccio un governo ma le riforme. Draghi, la BCE è pronta a misure anticrisi, preoccupa la bassa inflazione del supereuro, lo spread scende ancora, Moody's fiducia nell'Italia. Napolitano, inaccettabili le violenze nelle piazze e negli stadi, la procura a comando di 4 persone insieme all'ultra romanista De Santis. Al via a Torino la 27esima edizione del Salone del Libro, il mercato è in caduta libera, un italiano su 2 non legge, per fortuna ci sono i ragazzi, ma il vero boom è l'editoria religiosa. Hai visto che oggi, anzi, quando era? Oggi o ieri? All'area che tira? Ieri, credo. Ieri all'area che tira, a un certo punto il grillino Fraccaro si pulisce da Civati. Sì, Civati sta parlando, gli appoggia una mano sul braccio e lui fa così, come per liberarsi. Adesso alla radio non si vede, comunque lo sto facendo. Si libera da qualcosa, dalla sporcizia. Come anche se avesse della polvere, dello sì, secondo sporco. Secondo me è un gesto normale, non è un secondo gesto di schifo. Secondo me è un gesto schifoso. Ma dai, esageri, cioè, sempre con i grillini. No, non con i grillini, perché l'avesse fatto chiunque altro l'avrei detto. Ma è come dire, io non sono come te, mi fai schifo. Ma capito? No, ma non è così. Vabbè, dai, su Augias, senti Augias cosa dice. Grillino Fraccaro è stato sfiorato da Scivati durante la discussione, si pulisce platealmente la manica, ma che diamine, i talebani sono già qui. Augias, prende sul serio queste cose qui. Ha ragione Augias. Ma è avvelenato con i grillini Augias, qualsiasi cosa per lui è un dramma, un'offesa. Beh, una turpitudine. Non sanno cosa sia l'educazione. Dai, su. Alcuni. Massimiliano da Bari, dai. Buonasera Giuseppe, buonasera a te, dimmi. Davide, buonasera a chi ci ascolta. Ciao, una domanda a te, Peppe, volevo chiederti, prima nel siparietto con Emilio Fede tu hai detto, hai chiesto se il cavaliere Berlusconi troverà una nuova cura per l'Alzheimer. Quanto c'era di stile Zanzara per il quale dobbiamo sbellicarci al casello di Carice e quanto invece la tua domanda era giornalisticamente corretta? Non ho capito, scusa Massimiliano, queste cose mi fanno impazzire, quanto c'era nella domanda? No, intendo io ho detto che Berlusconi ha detto una cosa, sto studiando tutte le cure per l'Alzheimer, io non lo so, magari ha in mente, se ne esce dicendo ho trovato la cura, aiuto i malati di Alzheimer, eccetera, si stava un po' giocando su questo, ma non si stava prendendo in giro i malati di Alzheimer, amico mio. No, questo mai, mi fa sentire, sto portando un contributo, penso, positivo. Il professor Nicola Colabufo, Università degli Studi di Bari, ha trovato il gene che diagnostica preventivamente e precocemente il tutto, però sai, è sempre bello ascoltarvi, ma ogni tanto dare qualche informazione. Ma non c'è da dare nessuna informazione, io non lo so, va benissimo, se avanzano le ricerche sull'Alzheimer, sono contentissimo, magari mi piglierà pure a me. Se lui poi ci mette i soldi, no, te lo dico perché io... Magari metterai i soldi nella ricerca sull'Alzheimer, Massimiliano, magari ne so. Vabbè, grazie, Marco da Milano, dai, Marco da Milano. Marco da Milano. Marco? Dimmi, dai. Buonasera. Allora, io vi chiamo perché volevo chiedervi, non vi siete rotti i coglioni di vivere in questo paese? Non vi siete rotti i coglioni di vivere in questo paese di merda? Dove ti svegli la mattina? Anche no, comunque. No, vabbè, immagino. Ogni giorno ti svegli e ce n'è una. L'altro giorno prevedevo quella deputata che andava, ci prendeva per il culo, andava da porta a porta, che comprava le zucchine, i pomodori, prosciuttino. Sì, per proseguire con questa balla sesquipedale che uno può fare con 80 euro la spesa per due settimane. Ma io mi sentivo preso per il culo, hai dato 80 euro, basta, fai cosa ne vuoi, inutile che vai a fare la spesa. No, siccome l'hanno attaccata su questo, lei ha detto, cavalcando giustamente la polemica, vi spiego, ho capito, ma sei noi giornalisti, chiediamo c'è peggio di Achille Lauro questa roba qua, ed è una cosa talmente elettorale che Renzi voleva far inserire all'interno dei bollettini degli stipendi, la cosa ve l'ha data il governo, più elettorale di questo. Che viene data dopo tanto che arriva dopo le elezioni, ma è uguale, no? Perché non ce l'ha fatta, arriva il 28. Perché non ce l'ha fatta in tempo, altrimenti la voleva mettere per il 25 venditore maggio. Voleva, l'ha dichiarato lui stesso. Basta dirlo. Lui stesso ha detto mi piacerebbe arrivasse prima. Basta lo disse lui in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ma l'aveva detto infatti. Sono tempi duri, eh. Radio deve chiudere questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione, poi anche la radio se non chiude la trasmissione. Direttore? Pronto? Direttore? Chi è? Ma di onda del direttore? Come? Ma chi è? Sei il direttore, no? Emilio? Emilio? Pronto? Direttore? Ma chi è? Emilio, è la radio! Non è la radio, forza. Sei la radio? Emilio, siamo noi! Allora va bene, ma che ne so, compare sconosciuto, porca miseria. Ma non... Beh, che quando compare sconosciuto, scusa, che succede? Come? Non si sente niente, guarda che pazzesco. Ma quando appare sconosciuto, che succede? Quando appare sconosciuto è come ci sono persone che mi insultano, una cosa, ho sempre la preoccupazione che sia una coglionata, capito? Oh, sì? Si sente adesso mente. Mi sentite benissimo, sono quasi a Milano. Direttore? Eccoci. Direttore? Sì. Direttore? Ma mica si sente, però. Ma non è la radio! Non è la radio! E chi è, la televisione? Non è la radio! Abbiamo avuto il tuo telefono, non è la radio, ti abbiamo scoperto! Ah, ecco, ma siete per il Cremlino? È la TV di Putin, della radio Putin? Ti abbiamo scoperto, non è la radio! Ah, non è la radio, e che? Non è la radio, la Rai TV. Ma dove sei? Che non si sente un rimbombo pazzesco! Ma allora, sono in treno e sto viaggiando verso, sono quasi a Singapore. Vabbè, ma tu quando ti risponde un numero privato, ma c'è gente che ti perseguita per telefono? Sì, ma accidenti, ma sai... Ma quante telefonate al giorno ricevi? Quante ne ricevi al giorno? Come? Quante ne ricevi di telefonate? Guarda, non meno fra giorno e notte di una 15 o 20. Ma vedi, il problema è che... Ma tu come rispondi tu? Beh, già rimando a fanculo. Ah sì, in genere fai così. Ho pagato un sistema che non rivelerò, sì, sì. Per cui compare sconosciuto e due minuti dopo mi viene indicato che è il numero vero. Ottimo, ottimo, ottimo. Faccio del denuncio, ma per il resto... Vabbè, ciao direttore, ciao, ciao, ciao. Ciao, caro. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. Francesco da Torino. Pronto? Sì. Ah sì, buonasera. Dimmi. Dunque, se mi è permesso, devo fare una piccola considerazione sul momento che sta vivendo Berlusconi. In quanto negli ultimi periodi, insomma, mi sembra che sia andato un po' lungo, un po' in carenza sulla comunicazione. Sì. Anzi, per dire la verità, secondo me l'ha cazzata proprio in pieno in alcune fasi. Vabbè, allora? Sono problemi suoi. Allora, per rialzarsi dal punto di vista comunicativo, secondo me dovrebbe tirare una bomba, cioè dovrebbe fare qualcosa, perché ormai cioè una bomba, non ho capito in che senso dovrebbe tirare una bomba, scusi? Secondo me è l'unica ce l'ha in casa da tirare, deve mollare la Pascale in diretta. Ma quando mai si mollare la Pascale in diretta? Ma lei è matto? Che cosa può fare per far parlare un po' di sé? Che cos'altro può fare? Può stare lì a menare il torrone con le sue opere? Non lo so, adesso ha alzato la promessa delle pensioni a 1000 euro, si è inventato i cani e i gatti. Quei polli lì, quel mangime, non lo mangiano più. Quei polli lì, quel mangime. Cioè lei sta dicendo che quelli che votano Berlusconi sono dei polli? Ma non è il pollo in sé, io l'ho anche votato, sono pollo pure io, ma non perché ha alzato l'asticella, perché ormai il sistema sta cambiando e lui, che è il gran campione della comunicazione, deve tornare ad esserlo. Santoro in campagna elettorale sarebbe il top, un'altra sceneggiata come quelle sarebbe il massimo. Santoro non c'è, per cui vediamo. Servi di Roma fuori. Marione Borghezio totalmente ubriaco, intervistato da Parenzo per il Corriere.it. Sentite. Padania bella e libera. Siamo qua dopo aver bevuto solo inizialmente i primi 5 litri di ottima birra di Strasburgo, birra nordica naturalmente, molto apprezzata anche a Roma. Lazio, nazione, il resto è meridione. Lazio, nazione, il resto è meridione. Guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di... Non vorremmo essere qui a documentare l'ultimo video di Borghezio da Strasburgo per decretarne l'addio. Questo io... Comunque, nel caso... Documento storico. No, je ne regretto rien, no, rien de rien. Non ripiangiamo niente, le nostre battaglie identitarie, soli contro tutti, anche al Parlamento europeo. Je ne regrette rien. Beh, questo mi ricorda però per Edith Piaf, che c'entra? Je ne regrette rien. Sì, però è terribile. Je ne regrette. Non mi pento di nulla come nulla. I soldati hitleriani. Quello ricorda, vagamente quello ricorda. Senti un altro, ma era molto ubriaco. Ma senti, l'ho fatto io. Era molto ubriaco. Completamente. Sudate, enorme, grassissimo, fuori da una brasserie di Strasburgo che ricorda quelle zone della Germania, cari amici. Perché proprio da tutta proprio. Sì, ho capito. La promessa, se ci votate, noi tutti i rompicoglioni vi compriamo un lavaro, un stupà, no. E gli togliamo fuori dalle palle! Dalle palle! Dalle palle! Caccia oltre il fiume, il potere falso che ci spreme. E per la prima volta sarà candidato in Centro Italia. È stato un pensiero gentile. Bravo, Mario! Ma sempre voluto tanto bene. La Lega federale ha detto fammi questo regalo. È tanto facile essere eletti al nord, no? Qualunque coglione del nord si presenta al nord, lo eleggono. Ma andiamo un po' Borghezio a farsi il culo a Roma, mi raccomando, tenete conto della buona volontà. A me fa tristezza però che esce praticamente, sì, se la Lega non fa un risultato eccezionale, purtroppo non avremo più Borghezio. Io lo dico, suscitando le ire di molte persone, purtroppo non avremo più Borghezio al Parlamento Europeo. Chissà cosa si inventerà. Gian Piero da Firenze, vai. Sì, buonasera. Senti, io volevo chiedere una cosa a Parenzo. Eccomi. Eccolo là. Sentiamo. Allora, senta un po', signor Parenzo, io non ho capito ancora. Forza. Da quando cominciano ad arrivare, questi forza. Signori, cominciano ad arrivare. Forza! Avanti! No, è una domanda, io non ho capito. Lei che cosa vuole comunicare al pubblico quando fa l'imitazione di Grillo? Ilarità. Non l'ho capito. Ilarità, solo ilarità. Se lei ride bene, se non ride me ne faccio una ragione, ma non voglio comunicare nulla. Sì, ma non c'è un complotto. Grido, a lei non fa ridere, magari a altri sì, ma non è che c'è un complotto. Mi ha chiamato napoletano. Mi hanno chiamato dal sole, mi hanno detto fai l'imitazione di Grillo. Anche perché ho votato Grillo, ha capito? Nella radio di Confindustria che Grillo vorrebbe vendere o fare non so che cosa, ho votato il signor Grillo, forse lo voterò ancora. Non è che c'è un... Te lo dico, forse lo voterò ancora. Va bene, ma allora fate l'imitazione anche di Berlusconi. Ma non è che votare una persona c'ha il timbro sulla testa così. Io non appartengo a nessuno, ha capito, Giampiero? Lei non riesce a ragionare da questo punto di vista, ha capito o no? E cos'è che mi manca? Perché comunque un tassello di ragionamento mi manca, perché qui c'è qualcosa che non torna, perché da come l'ilarità, signor Parenzo la mostra, sembra dire... indirettamente che io sono contro Grillo, vorrei politicamente distruggere. No, io sorrido sulle cose, ma non voglio distruggere nessuno, io in democrazia figuriamoci, sorrido su alcune cose che dice Grillo, la mozzarella che si deve mangiare solo in Campania, cioè sorrido sui vizi, no, sulle cose, sulle battute che fa Grillo, su quelle ironizzo, sul suo programma elettorale. Va bene, ma guardiamo i contenuti, non solo la comunicazione, ma è ironia, non si preoccupi, rimanete il secondo partito contenuti. Italiano nonostante la mia imitazione, forse diventerete anche il primo e ne sarò contento per voi, non si preoccupi, no, stia sereno. Salvatore da Bari. Ma io sono sereno. Salvatore da Bari, grazie. Salvatore da Bari, mi intrometto, ma litigano Cruciani, che faccio? Come? Ah, eccomi, buonasera. Vai, dimmi. Io ero uno di quelli che ieri era a sentire Grillo a Bari, sì, per la prima volta a Bari. Ma a pagamento o gratis è andato? Gratis, era il comizio, imbecille. Dai. Bravo. Vai, no, Salvatore, allora che pagano. Parenzo, non voglio diventare volgare, però hai rotto gli zebedei, come si dice. Ma ti ho chiesto solo se hai pagato o se sei dato gratis. Bravo, anch'io sarei andato a sentirlo gratis. Guarda che pagato ci vanno solo quelli del tuo amico Berlusconi, tuo amico virgolettato. No, amico di Berlusconi non mi pare. No, un momento, sai che Grillo fa gli spettacoli. Fammi finire. Fa spettacoli a pagamento, giustamente, un comico. Io ho 50 anni, ho votato più o meno nella speranza che qualcuno, Berlusconi compreso, che cambiasse un po' le sorti di paese. Allora, il discorso è molto semplice, ma dobbiamo votare di nuovo quelli che ci hanno affossato? Sì. Dobbiamo votare di nuovo gli Scaiola, dobbiamo votare... Non è neanche candidato Scaiola. Non ho capito. Non è neanche candidato Scaiola. Ho capito, ma parlo di quella parte politica. Allora cerchiamo di dare un po' di senso a quello che si stanno facendo queste persone che si impegnano tutti i giorni a provare a portare un po' di onestà. Noi ci manca neanche quella ci abbiamo tra chi ci governa, ma almeno un po' di onestà premiamola. Questi sono appena 9 mesi che stanno in qualche posto di responsabilità e tu vuoi distruggerli pigliandoli per il culo. Ma io non distruggo nessuno né niente. Guarda, se i grillini si fanno distruggere dalle mie battute siamo messi male, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ma non i grillini. Ma io non distruggo niente, ironizzo su tutto, non distruggo proprio niente. Salvatore, ciao. Comunque, ciao, va bene, ciao. Come moleste moschito. Come moleste moschito. Oh, se resistete fra una mezz'oretta 40 minuti, mezz'oretta 40 minuti, cosa succede? Le reazioni di Emilio Fede quando lo chiamano con un numero privato, cioè con un numero sconosciuto. Beh, siamo al top, Perché sì, noi siamo come San Tommaso, non ci crediamo se non ci mettiamo il naso. Appena esatto. Lui io non detto... ci volevo credere, una volta mi ha detto al telefono: ma guarda che mi chiama la gente. Allora abbiamo provato a vedere se è abbiamo vero. Provato perché volevo chiamare per registrare una cosa e ci ha risposto in maniera incredibile. Fra mezz'ora sveleremo tutto. No, chi è? Chi è? È con noi Maurizio Bianconi, Forza Italia, buonasera. Pronto? Questa come andiamo? Notizia. Bianconi? E dov'è? È in macchina. Bianconi? Fabio da Rovigo. Buonasera Cruciani. Mi dica. Volevo fare i complimenti a Parenzo. Volevo fare i commenti a Parenzo per come ti ha fatto sentire dalla Le Pen l'intervista che le ha grazie, fatto. Caro, grazie. Vabbè, dai, Fabio, su, i complimenti non ce ne fotte un cazzo a noi, dai, veloce. Ti ha fatto mandare a fanculo con classe, proprio con esperienza. Grazie. Si vede che è un vero professionista. Grazie, caro, grazie. Ha voluto mettere in bocca delle parole che lei non ha mai detto. Perché nei suoi programmi non ha mai parlato lei di antisemitismo. Vabbè, ragazzi, però che vi fate i complimenti qui? Ma che vi fate i complimenti? Lei l'ha guardato dall'alto in basso e gli ha detto io ho detto semplicemente che gli anti-europeisti usano la propaganda tipica degli anni 30. Una puttana, l'Europa. Ma non ha mica. Vada a rivederselo il video. www.corriere.it. Vada a rivederselo e vada a quel paese anche. Quando Marine Le Pen ha parlato di antisemitismo? Vada a rivederselo. Quando? Vada a rivederselo. Ho detto la propaganda che ha lo stesso stile degli anni 30. La propaganda che si fa nei confronti dell'Europa. Vuol dire essere antisemiti. Senta, se a lei piace questa gente qua, gli piace così. Per come fai a paragonare quelli che sono contro l'euro agli antisemiti? Ho detto che usano gli strumenti e gli stessi argomenti che usavano i nazisti negli anni 30. Tipo? Il mostro, come se fosse un grande complotto internazionale, qualcuno che tira le fila, la Commissione Europea. I nazisti lo facevano nei confronti degli ebrei, ma hanno ammazzato gli ebrei, è diverso, ogni volta sei tu quello che dici di non mettere in mezzo queste cose e poi le utilizzi tu, vergognati. Usano gli strumenti di quella propaganda lì. Ma hai capito? Come gli anti-europeisti. Ma falla finita. Esattamente così. Ogni volta ti lamenti quando qualcuno utilizza. Tant'è che la Le Pen in quel video lo conferma. Lei dice: ci sono le lobby, le grandi banche, quello è il problema. Ma che c'entra questo con l'antisemitismo? Ho detto che lo strumento della propaganda simile a quello nel creare dei grandi mostri. Questo ho detto. Vabbè. Va bene. Oh, sentiamo se abbiamo in linea Maurizio Bianconi, eh? Agli ordini. Eccoci, grande, come andiamo? Bianconi, grandissimo. Come andiamo? Bene. Dov'è? Maurizio Bianconi, Forza Italia. Sono vicino a casa. Cioè in Toscana, sta dicendo? Sì, a Firenze. Guarda, caro, io faccio una comunicazione privata. Ma perché in Toscana ci sono? Non riguarda lei. Perché in Toscana, per esempio, ci sono? Ho conosciuto tantissimi fascisti, gente. Riguarda lei, Bianconi. Mi sa dare una spiegazione a lei che è uno storico? Perché il fascismo attecchì in Emilia, in Toscana, più che in altre, regioni. E poi dopo con il comunismo dal 45 in poi l'anticomunismo fu ferocissimo in Emilia, in Toscana. Quindi quando lei parla con gente di destra in Toscana è frequentissimo che lei trovi degli fascisti arrabbiati. Ma anche lei è stato fascista, Bianconi? No, sì. Mai. Socialista, Bianconi. Sono stato iscritto al Movimento Sociale, ma fermamente non fascista. Sapevo che nel 74 me ne dovette andare. Una lite furibonda con Almirante a causa della questione del divorzio e dell'apertura alla destra. Bianconi, secondo lei in questa vicenda di Scajola non mi dica che c'è una specie di complotto, un timing elettorale, eccetera. Non conta nulla, ormai Scajola l'hanno pure fatto fuori. No, io non penso che ci sia un timing elettorale. Penso che ci sia talvolta un desiderio eccessivo di protagonismo di alcuni magistrati che non sanno trattenere la opportunità delle cose, insomma. Fa fuori Scajola 17 giorni prima, 17 giorni dopo, non inficiava l'indagine su Matacena. Magari l'ha aiutato per davvero. No, questo non c'entra mica nulla, cioè il merito è secondario rispetto a lei dice l'arresto, valutazione. Lei dice l'arresto. Sì, l'arresto 17 giorni prima, 17 giorni dopo, non può, l'eclatanza come quelli di Greganti a Milano. Cioè tutte cose spettacolari, dice lei. È un pochino, ci sono questi magistrati che ce l'hanno sta tendenza, insomma io faccio l'avvocato da troppo tempo per non sapere che i pubblici ministeri... Comprensibilmente? Perché è una società dell'immagine, dei media, e quindi quando qualcuno fa qualcosa che secondo lui è fatto bene, che lo pone in luce, ha il desiderio di avere una vetrina. Insomma, cioè anche loro non vivono sulla luna. C'è qualcuno poi che ha più interesse, qualcuno meno. ma insomma, non c'è pubblico ministero, almeno un pubblico ministero in ogni procura che non ha la sua, come posso dire, la sua corsia preferenziale con il giornalista. Senta Bianconi, ma lei avrebbe paura a essere indagato oggi in Italia? A essere... Io sono stato indagato alcune volte. Per cosa? No, tutte sciocchezze, però hanno dato 2000 euro al PDL in maniera secondo loro sbagliata e quindi mi hanno indagato per finanziamento illecito, 2000 euro. Beh, sì, ecco, faccio per cose così, però uno sta, non sta tranquillo, insomma, non è una bella cosa. Cioè, i magistrati non ti fanno stare tranquillo? È il meccanismo che non ti fa stare tranquillo, perché il meccanismo è un meccanismo quasi impersonale e lungo. Ti beccano in un secondo, per lasciarti ce ne vuole, insomma, e quindi è un po' un tuitato nel sistema, diciamo. Allora, voglio dare notizie aggiornate. L'avviso di garanzia, concepito come garanzia, è diventato l'avviso della dannazione. Sì, un po' sì, eh. Voglio dare qualche notizia su Jenny Acarogna, sul famoso Jenny Acarogna. Oggi avrebbe detto: alla polizia io non ci vado, già hanno arrestato a Ciro solo perché ha aiutato quella gente, finisce che arrestano pure me. Però voglio dirlo forte che quello di sabato è stato un agguato, perché adesso noi napoletani vogliono farci passare per delinquenti e camorristi, vale pure per Jenny Acarogna, tutti contro di lui solo per quella maglietta. Io ribadisco un concetto, caro Bianconi: i 5 anni di DASPO che sono stati inflitti al signor Jenny Acarogna sono un'operazione elettorale. Troppo pochi. Sono un'operazione elettorale, perché al di là del fatto che Jenny Acarogna probabilmente non deve andare manco allo stadio, appunto, ho capito, ma non è che uno indossa una maglietta in cui c'è scritto Speziale Libero nel contesto dello stadio è un affronto, è una dichiarazione di guerra. Ma che pensa Bianconi? Mai, che pensa mai? Bianconi? Alfano ha fatto delle cose elettorali in questi giorni, Alfano. Negando anche la trattativa, cioè questo qua alla fine ha fatto una trattativa. E Bianconi che dice? Che è d'accordo? Bianconi, d'accordo con me? Ascolto questi fatti, la vostra inutile diatriba. Perché? Senza offesa per nessuno. No, prego professore. I 5 anni di DASPO non servono a cazzo nulla, perché gli avvenimenti, diciamo così, gravi sono avvenuti fuori dallo stadio, da uno che probabilmente il DASPO ce l'aveva già, che non aveva tenuto niente di meglio, che andava proprio per i coglioni a dei tifosi che poi per pigliare le revolverate, insomma, quindi il DASPO non c'entra. Il problema vero sono i tifosi organizzati. No, ma volevo sapere qualcosa su Alfano, una dopo la pubblicità. No, mi Alfano, io, se guardate il mio intervento alla Camera, perché io sono intervenuto, gli ho detto che purtroppo è rimasto ministro dell'interno e non è diventato primo ministro, perché lui le bugie le dice ma non le sa di bene come Matteo, si vede subito insomma che è un bugiardo. Siamo come lei, siamo come lei. Ma io ascolto questi fatti, la vostra inutile diatriba. Siamo come lei. 800 24 00 24, la Zanzara. Bianconi, oggi Berlusconi ha detto che la Boccassini ha motivi per fargli del male. Ha letto cosa è successo? Ho letto anche qui, io sarò bastante contrario, ma non si coglie nel segno. Cioè, la Boccassini ha fatto una cosa che non poteva fare, ed è una cosa giuridicamente ovviamente molto grave, che lede, come posso dire, la stessa funzione del pubblico ministero. Ora, questa cosa non è che si è saputa perché attraverso un'indagine conoscitiva. No, l'ha detto un magistrato, Siccome si fanno la guerra fra loro e si fanno, diciamo così, le delazioni reciproche, vede fuori che un magistrato fa la spia e dice che la Boccassini ha fatto una cosa che non poteva fare, il che vuol dire che la verità viene fuori anche in magistratura soltanto quando ci sono le coltellate alla schiena fra colleghi. Questo allarma. Più che il fatto in sé, è come viene fuori il fatto. Sì, lei dice poi che le indagini... Il generale immediatamente doveva dire: guardi, lei non lo poteva fare, e lei è ripresa, c'è una cosa disciplinare, qualsiasi cosa. Ma lei che pensa della Boccassini? Che è un magistrato preparato, in tutta la vita ha dimostrato di essere un magistrato. Ah, preparato, cioè una con le palle, dice lei. Sì. Poi ogni tanto, come tutta la gente con le palle, può darsi che gli pigli il vizio di fare qualcosa in più, perché quando si ha le palle si ha anche talvolta il delirio di onnipotenza. Può capitare anche a lei, brava, ma è sostanzialmente un magistrato molto bravo. Un bravo pubblico ministero. Anche nelle accuse, anche nei processi con Berlusconi, si rigorosa, brava. No, se è rigorosa non lo so, perché non sempre i pubblici ministeri bravi sono rigorosi. Sono i giudici bravi che sono rigorosi. Comunque un pubblico ministero... I pubblici ministeri devono essere coraggiosi, perché devono fare delle indagini. Mentre il giudice è rigoroso, quello che analizza la prova, quello, è, quello sì. deve essere bravo. Sì. È rigoroso, è un'altra cosa, cioè sono due massimi. Vabbè, comunque Bianconi, la realtà è che lei apprezza la Boccassini, cioè stima la sì, Boccassini. Sì, per me è un giudice, è un magistrato che sa fare il suo lavoro. Ripeto, ogni tanto anche lei gli, vabbè, gli scappa, gli scappa la pensione. Gli parte la manetta, come tutti gli iperintelligenti, gli iperbravi, ogni tanto qualche cazzata in eccesso la fa. Comunque, oggi ho visto pubblicate dall'Espresso delle foto di Veronica Lario, ma ingrassata a dei livelli pazzeschi. Ma vabbè, ma come adesso però no, ma delle foto pubblicate dall'Espresso. Adesso... Però sei sgarbato, le ma perché? Una signora, no, ma che c'è? No, ma a me se me ne frega, scusa. No, le sto dicendo perché a lei non gliene frega niente, d'accordo. No, era per dire che all'interno di questo servizio c'era questa richiesta pazzesca fatta a Berlusconi, perché la vicenda del processo, lei è pure avvocato, non è, della separazione ancora non è terminata. Chiede a Berlusconi 540 milioni al 540 milioni, cioè una cosa pazzesca. Ma è una cosa pazzesca. Cioè... Lo so, le donne mi stanno attenti. Eh? Bisogna stare attenti. Le donne bisogna stare attenti. Lo so, infatti. Può capitarti tutto. Senta, ma lei non mi pare un appassionato, Bianconi, del Dudu Act, ad esempio? Non mi pare che sia... davvero. Eh? No, davvero. Come no, davvero? È ormai la... Diciamo. È la constituency del partito. È la banalizzazione del centrodestra. È una puttana. Quindi non posso essere d'accordo. Capisco, essendo io non un innamorato dei cani, un fanatico di cani, sì, convivendo sì. con i cani da tutta la vita e sì. capendo il grande amore che ti danno senza mai chiedere niente, sì. e quindi io so... Però fare il Dudu Act, Bianco... Però non mi pare che possa essere, come posso dire... È una puttanata... La una puttanata di una bella rivoluzione produttiva per i ceti medi che salvi la casa, insomma c'entra quanto un cavolo a me vende. Però tutto fa, disse quello che Ma è come tutto fa? Una puttanata pazzesca. Tutto fa, disse quello che pisce in mare, tutto porta voti, quindi... Tutto fa quello? Ma questo che porta voti? Tutto ma fa, disse quello che pisciò in mare. Era uno sul pontile che piscia in mare. Gambi, e detti fa, ma tutto fa, nel senso che acqua tu acqua, insomma, porta... C'è un minimo contributo, quindi anche questo. Vabbè, tutto acqua, porta acqua. Me lo ridica in toscano, che mi piace troppo, come lo dice lei. Me lo ridica in toscano, che così diventa uno degli aforismi della Zanzara. Tutto della fa, disse quel che pisciò in mare. Beh, questo è stupendo. Però lei non andrà alla festa degli animali di sabato a Milano. Dai, ma quale festa degli animali, scusa? No, no. Io faccio un altro tipo di politica. Poi io, Presidente, ho grande ammirazione. Però, della grande personalità, però non se ne può più di questo Dudu. Ma insomma, su queste cose non sono nelle mie corde. Ma Dudu l'ha mai incontrato lei? No, davvero. No, ma come no, davvero? Perché dicono, dicono che quando poi si... Ho sentito uno prima diceva che abbaiava. Sì. I cani piccini dovrebbe sapere che abbaiano quasi tutti perché sono piccolini e quindi hanno paura, quindi fanno l'abbaiata per tutelarsi. È difficile che non abbaiano. Ma dicono, non abbaiano a chi conoscono. Dicono, ma in genere per il primo approccio con un cane piccolo è una abbaiata nel viso. Ma dicono che quando entra in confidenza, dicono che si struscia sulla gamba. Vabbè, è normale. Lo fanno tutti i canini, i barboncini specialmente. Si strusciano tutti. Comunque sto barboncino, Dudu mi sembra che viene un po' utilizzato in maniera impropria, diciamo la verità. No, un pochino lo pigliate per il culo, un pochino si fanno pigliare per il culo, insomma è un concorso necessario, fa chi ci sa pigliare e chi ce li piglia. Sì, insomma, sì. Io politicamente eviterei, ecco. Eviterebbe cosa? Di andare di fare mentre la gente ha problemi con i 1000 euro al mese, eviterei di fare lo spirito su Dudu quando si deve scegliere gente che deve amministrare con serietà, insomma. Cioè basta utilizzare Dudu in campagna elettorale, diciamo, che basta utilizzare Dudu e utilizzare gli anti Dudu, cioè portare la tematica su questa cosa qui che è comunque marginale. Comunque, se lei dovesse dare un suggerimento al signor Dell'Utri, gli direbbe di restare a Beirut per come è fatta? Sì, sì. Come sì, da avvocato sì, lei dice. Se ha fatto la sua scelta, faccia la sua scelta. Ma è un latitante. E chi so io per dirgli torna qua, vai in là. No, per dire. Ma è latitante, però, amico mio. Bianconi. Ma è beato lui che è latitante. Ma come? Sa quante gente che sta dentro che dovrebbe essere latitante? Ma ho capito, ma lei però non può. Ascolti, Bianconi, lei è avvocato e anche parlamentare di Forza Italia. Ma che c'entra, scusa? Ma se sento io con Dell'Utri, ma Dell'Utri è un libero cittadino. No, che d'accordo. Deve aver subito una condanna. Ma lei, che è un parlamentare della Repubblica, dovrebbe dire no, è inammissibile che. Beh, perché, ma per quelli che sono stronzi lo dicono, quelli che sono politicamente corretti. No, però, scusi, fa mi quello prendo che gli dello pare, stronzo Valentino. Essendo un privato cittadino. Ho capito, ma lei che è rappresentante del popolo. Matteo, da farti fregare, cioè non è che faccio il tifo per Dell'Utri. Dico che capisco quello che ha fatto, perché quando uno sta per fare 7 anni di galera non intende fare, e c'è uno stato babbeo che gli fa fare certe cose, questo le può anche fare. Quindi io l'ultima cosa che direi a Dell'Utri è costituisciti. Ma certo. Fai come cazzo ti pare. Ma come, ma certo? Tua. Ma lei è un parlamentare della Repubblica, ma che immaginiamo? Ma lei quando fa il coglione gli riesce bene. Ma cioè, che lo cosa, sapevo, che cosa sarebbe... cazzo c'entra che io sia un parlamentare? Ma perché dico che comunque se lei... Non ho mica la facoltà di dire, ho capito, a ma lei, quello che deve ma secondo fare. Lei in Germania un deputato della Repubblica o del Bundestag... Ma sono sempre della Germania, io sono in Italia, mi importa parecchio della Germania. Germania importa, non c'è gente uguale, sega, non c'è gente Germania. Uguale a noi. Sì, la Germania però... è un popolo che si è lasciato stare, diceva François Mauriac, che lui dice? Voleva tanto bene ai tedeschi e alla Germania, gli voleva tanto bene, che invece di uno era contentissimo di vederne due. Quindi bisogna stare attenti. Ma lei non è la, in questo cioè, caso... lei non sopporta la Germania, mi dica la verità. Me lo... Io sono sempre stato ostile, proprio a pelle, a tutto ciò che veniva. Cioè, se vedi, se lei incontrasse, se lei... né per modo di fare, né per quello che hanno fatto, né per quello che hanno fatto in Italia, né per quello che hanno fatto in Italia, ai loro alleati e ai loro nemici, sì, né come si sono comportati durante la guerra, dopo la guerra. Comunque, se lei io incontra per... guardi, così capisce subito e chiude l'argomento, sì. E penso capisce meglio di lei. La mamma del mio babbo si chiama Falcidi di cognome, quindi lei capisce come posso vedere i tedeschi. Sì, ho capito. Cioè, io. Se lei incontra la Merkel per strada, che succede? No, lui dice niente, per la... se posso passo dall'altra parte, preferirei non salutarla. Vabbè, no, però transo. Voglio tornare un attimo a questa roba della latitanza, perché, però. Perché secondo me è vergognoso che un parlamentare della Repubblica, che è un parlamentare della Repubblica, me dica parla... io voglio bene resta, a Bianco. Resta sì. Beirut. Secondo me un conto è la io mi rifiuto di continuare un discorso così che fatto veramente a proposito di Dudu a cazzo di cane. No, Dudu, Dell'Utri, che c'entra Dudu? Dell'Utri. No, secondo dico, se abbiamo parlato di Dudu. Ora io mi rifiuto di andare avanti su Dell'Utri perché ricordando Dudu mi parlo un discorso a cazzo di cane. Eccolo con questo. però scusi, che Parenzo vuole dire che è un parlamentare della Repubblica. No, Parenzo vuole dire dice. Ma dice Parenzo dice una sciocchezza. Ma anche una stronzata dice, se vuole, come, però come gli succede spesso quando vuole provocare. Perché? Perché voi vi avete chiesto, lei è avvocato. Cosa consiglierebbe a Dell'Utri? Questa sì. è la domanda. Ma io ho detto, come avvocato non gli consiglierei di fare quello che vuole, se vuole rimanere latitante. Quindi rimanga. Direbbe la stessa cosa di non Battisti, non me ne fregherebbe assolutamente niente. Allora anche come Battisti... parlamentare, non è mio compito invitare no, i latitanti a costituirsi. No, d'accordo. Tantomeno Dell'Utri. Ma lei, però voi del centrodestra, però ho capito amico mio Biancori, a voi del centrodestra voglio discutere ma su voi questo. Chi? Ma su perché? Battisti, perché il criminale comunista Battisti. Te che hai sofferto tanto. Ma scusami no, però Bianconi. Perché parli per categorie? No, ma dico tu allora, voi tu, chi? Ma voi chi? Tu onorevole, mai detto voi, tu onorevole non Bianconi. Non mai detto voi giornalisti. Ho detto tu onorevole Bianconi, ad esempio, oh, su bravo, Cesare Battisti, sul criminale comunista brigatista che non era brigatista, ma Cesare Battisti che è latitante. No, io ho contestato di Cesare Battisti non il fatto che si sia fatto latitante, ma il fatto che chi l'aveva in mano non ce l'ha restituito. Ma scusami però, Battisti è latitante e Dell'Utri è latitante. Molto, è uguale. Molto diversa, non solo diversa, diversa, ma è diversa nella contestazione di un'Europa che è unita e di tutti quando si tratta di pigliare le tasse, è disunita quando si tratta di applicare la legge penale. Comunque, è secondo tutto, cioè, è ecco al solito Parenzo un esempio per ricordare Dudu a cazzo di cane. No, senta, ma lei se lei, è scappato alla risposta, ma va bene. Lei insomma. Avrebbe applaudito se fosse stato in quella sala. Insieme ai poliziotti nella vicenda di Aldrovandi? No, davvero. No, no, davvero. No, davvero. Meno male. No, meno male. Meno no male. Che ne so. Io ho fatto l'avvocato. Faccio l'avvocato da 44 anni. Ho difeso i briganti neri e i briganti rossi. Io so come si comportava certa polizia in certi posti. Cioè, secondo lei la polizia in certe occasioni. Sì, è mancato molto per molto tempo. È mancato in molti il senso dei diritti altrui. Sì, con la giustificazione anche comprensibile che i diritti superiori in gioco della comunità potevano così cancellare i diritti dei soggetti che capitavano dentro a questo. Cioè, secondo lei la polizia ho episodi che ci potrei scrivere un libro certi comportamenti. Cioè, secondo lei la polizia ogni tanto picchia duro? Ogni tanto, ora non lo so più, perché non ho più quei tipi di processi. Quando facevo quei tipi di processi mi trovavo talvolta in posizione abbastanza imbarazzante. Bianconi, grazie, a presto. Grazie, grazie, ciao, ciao, a presto. Ciao, ciao. Salutate Dudu, se lo trovate. Arrivederci. Ciao. Spettacolare, spettacolare. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Un epico scontro alla Zanzara, Parenzo contro Marina Ripa di Meana, neoleghista. Hai messo infatti la colonna sonora adatta. Padania bella e libera, guardavano. Ripa di Meana, i clandestini non ci stanno e portano malattie. Non permettere al tiranno di accecare. Ma non sa che il nostro paese è quello che è, più di tanti non ce ne entrano. E che quelli che di clandestini, entrano, sì. Ecco, e io farò una guerra all'infinito perché non entrino più. Ma portano le malattie, secondo lei? Ma non si tratta di, a parte quello che portano, ma non c'entrano proprio. Siamo pieni, non se ne può più. Figlia della libertà. Gli 80 euro, ma questo non c'entra niente. Lo scontro con Parenzo. Lei non un'improvvisamente, è una cosa che dico da sempre. Sì. Il nostro paese è in pericolo perché è piccolo e non può sopportare l'arrivo di migliaia di... Tra un bicchiere di champagne e un massaggio... Ma che bicchiere di champagne? Lei è un fazioso ridicolo. Paese io bevo... pericolo. Lei è un fazioso paese ridicolo. Ma perché non lo può dire? Scusa, certo. Ma guarda, parte che magari ce l'avessi... Il paese è in pericolo, guarda. Ma... Il paese è molto in pericolo. È molto in pericolo. Le portiamo un po' di salmone, madame? Ma grazie, lo ricevo molto volentieri. Caccia oltre gli 80 euro, potresti darli come mancia al maggiordomo? Ma me li dessero a me, cominciassero a darli a me, che è questa favola, che io sia sono una ricca signora? Io sono... Quanti maggiordomi ha? Mica sei una morta di fame, scusami. No, non sono una morta di fame, ma non sono neanche una ricca, sono una persona che ha una dignitosa vita. Senza dubbi né ripensamenti. E infine... Voterò per la Lega, Salvini mi piace. È la quantità che fa paura. Fa paura la quantità. In un paese piccolo, piccolo, in uno stivale che non più di tanto non entrano. Beh, consiglierò a Matteo Salvini di farti presenziare a qualche comizio. Lì, ti voglio lì sul palco con Salvini, tuonare contro l'invasione. Ma volentieri, volentieri. Beh, su questo tema con Salvini sono assolutamente d'accordo. Anche su altri, forse voterò per la Lega. Sì. Padania bella e libera. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Sei ancora a casa? Sì. Ecco su di me, ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. E il conduttore? Ma peggio è, pure lo spray. Ascoltatori di Radio Padania nei confronti di David Parenzo. Perché ieri li ho pettinati un po'. E poi c'era quel deficiente di Parenzo che mi assumo tutte le responsabilità. Vorrei dire una cosa io, Parenzo, così magari mi blocco. Allora io darei un anno di vita per non andare in galera piazzandogli un cazzotto in mezzo al naso. Ma veramente, guarda, io penso che ci sia l'unica persona oltre a Prodi che mi sta sui coglioni in questo paese, c'è questo personaggio qua. Mi fai piangere. Questo era l'altro, no? Il conduttore. Barin, il conduttore? Ci vuole il rosario. Parenzo, perdonalo, non sa che cosa dice. Parenzo, non querelarci. Dolce Parenzo, non querelarmi. Gran conduttore, non querelarmi. Il mutuo di Parenzo, non querelarmi. Qui di soldi non ce ne sono. Se ci querela Parenzo, quelli guadagnano tantissimo a Radio 24, il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che guadagniamo a Radio Padania. Cioè siamo morti se Parenzo ci querela, capisci? Quindi... Ma Matteo è tornato su al nord? È tornato, vivo e vegeto. Sono contenta perché ha salvato la pelle. Ti giuro, sì, avevo paura che qualcuno gliela facesse. Beh, giù al sud ci vuole poco in effetti. Ecco, infatti ho detto, speriamo che si mette il giubbetto antiproiettile. Ma quello no di certo, però insomma chiaramente... Tutto questo fatto con il finanziamento pubblico, ci tengo a ricordarlo, non li querelerò, ma tutto questo è detto e fatto col servizio pubblico, cari amici di Radio Badalona. Col finanziamento? Col finanziamento pubblico, pubblico, usano il mio nome col finanziamento pubblico, una radio pagata col finanziamento pubblico, pagata col finanziamento pubblico. Ma potrebbe essere una buona idea quella per Salvini di andare a Napoli con il giubbotto antiproiettile, beh, stupendo. Cioè, a Napoli vado, sì, ci vado, però col giubbotto antiproiettile. È bellissimo. Sì, ma col giubbotto antiproiettile. Non l'hanno fatto parlare, è andato. Hai visto la signora, la vecchietta della Lega, no? La nonnina della Che Lega. Era preoccupata. La dolce nonnina razzista. Sai, la nonnina. Ma in queste elezioni non si sente Bossi. Come mai? Perché è andato un attimo a capire come. Come fare adesso perché Renzo non è candidato? Beh, sì, ma si sapeva Bossi che non era candidato. Allora me ne frega niente di quello che si può far vincere a lei. Sì, a lei, ma c'è Salvini. Ma c'è Salvini, vabbè. Ma adesso stiamo lavorando con una persona molto brava. Che è? Si chiama Napoletano. Napoletano? È il direttore del Sole 24. Ma che deve fare con Napoletano? Siamo d'accordo che Renzo può fare il condirettore. Ma come c'è? Condirettore che ti mandiamo via a te così. Napoletano, abbiamo già parlato con Napoletano. Ma che c'entra? Perché è venuto in Padania, ci vuole bene a noi della Lega. E abbiamo detto che con Renzo facciamo il ticket. E qual è? Napoletano, Renzo, Bossi insieme. Ah, tu dici. Condirettore. Sud e nord. E tu sei il primo che mandiamo via proprio. Via, cacqua. Torni a Roma, a casa tua. Roberto da Torino. Buonasera Cruciani. Buonasera. Oh, grillo a Napoli, ma ogni giorno in una città questa prende il 30%. Vabbè, per forza. Prende il 30%. Fa politica, certo. Senti grillo, giusto, senti, bravo. Può essere una grande qualità come una grande sfiga, vi passa soprattutto. E allora quando cerchi di dire cazzo, dai, svegliamoci, facciamo una cosa. Il primo pensiero che vi viene è caggio fa numero un boh, cazzo. È questo, è questo. E allora, ma in un momento. In un momento che solo voi, perché siete fuori di testa, potete capire la realtà, perché solo uno che la guarda alla rovescio capisce. E allora guardi, dai uno sguardo ai mezzi di comunicazione che vengono qua, probabilmente diranno che non c'era nessuno, probabilmente diranno che Napoli è persa, probabilmente diranno le stesse cose che avete sentito per anni su Napoli. Beh, mentre c'è questo, vediamo. Riempirsi di grandi problemi questo paese, che se non lo guardi alla rovescio con i piedi su e la testa giù non lo capisci. Ora, vabbè. Jenny Acarogna, che sia responsabile di tutti i mali del mondo, io non ci voglio neanche credere. Ecco. Jenny Acarogna è uno. Sentiamo. Ma no, non voglio fare neanche un'ovazione perché so che è di questo quartiere, per l'amor di Dio. Ma non è possibile che noi. Sono caduto anch'io nella trappola! Quale trappola? Allora il commissario Beppe Grillo. Vabbè. Ma Roberto Torino, dai, Roberto. Quale trappola? Roberto? Eccomi qua, buonasera Cruciani. Vai, vai. Buonasera. Allora, io penso che lei sia molto funzionale alla conservazione del sistema attuale. Sì. Lei è l'antitesi di Grillo. Sì. Perché frantuma tutti i pensieri che hanno una importanza, minimizzandoli e disperdendoli, quindi in realtà, come dire, toglie forza alla indignazione pubblica nei confronti di tutte le nefandezze a cui si assiste. Toglie forza alle nefandezze, basta, io non ne posso più, toglie Roberto. Toglie forza all'indignazione, minimizza ogni tipo di pensiero che vorrebbe eliminare questo stato di cose. Sì, questo stato di cose. Ma lei che fa nella vita? Nella vita lei che fa? Io cerco di fare l'imprenditore, anche se sono impedito con tutti i mezzi, perché non esistono i motivi per imprendere in questo paese. È paranoico chi apre una partita IVA e non ha un monopolio su un prodotto, perché il punto di pareggio per poter campare è diventato altissimo con i costi che dobbiamo sostenere. E questo non è certamente il sistema, Roberto, per rendere moderno un paese. Grazie, Roberto da Roma. Sì, eccomi. Io volevo solo fare invece una considerazione su quello che ha detto Grillo sui muri di Pixel. Io non ho difficoltà a credere che in America ci siano classi dove sui muri ci sono lavagne elettroniche dappertutto e via dicendo, però quello che omette Grillo è che se io facessi l'impiegato o peggio ancora l'operaio in America, probabilmente per mandare mio figlio a scuola io mi dovrei impegnare l'anima e indebitare fino al collo. Perché è tutto a pagamento, ci sono molte borse di studio, però è tutto a pagamento. È esattamente il contrario del modello di Grillo, no? Esatto, e probabilmente seppure riuscissi a mandarla a scuola, intorno ai muri ci avrebbe i graffiti e non le lavagne elettroniche, perché io in una scuola con le lavagne elettroniche non me lo potrei permettere di mandarci un mio figlio. Va bene Roberto, questo, grazie. Bruno da Napoli. Prego, Bruno da Napoli. Luciani, buonasera Parenzo. Ciao Bruno. Sono riuscito a dire pure buonasera a Parenzo invece che lo volevo mandare a fare. Oh, però Veronica Lario era su chi, non sull'Espresso. Appesantita e fuori forma. Su chi la nuova vita di Veronica Lario? Vabbè, allora Bruno? Vabbè, dicevo, allora riguardo la maglietta che ha messo quella persona. Allora, oh, chissà dicevo, perché il governo non riesce a vendere le sue Maserati, L'asta sulle Maserati. Chi è che compra la Maserati blindata? Scusa. Vabbè, allora? Allora, dicevo, riguardo alle magliette che ha indossato quel signore, allora dicevo, Carugna, secondo me Carugna, la stessa valenza, la maglietta che ha indossato quel signore, con un applauso fatto a dei poliziotti e da un gruppo di parlamentari che stanno sotto la magistratura a protestare. Non ho capito. Allora, no, lui ha detto la stessa cosa, la maglietta è la stessa cosa del gesto che hanno fatto i parlamentari del PDL quando sono andati al Tribunale di Milano a protestare per la condanna ingiusta a Berlusconi. No, questa perché lì si tratta, è una differenza. No, per me è uguale, io è identico. No, è una sciocchezza. È identico. E fallo identico dire a me che, come dire, non è che sono stato mai buono con è questi. Identico. Non è identico per perché niente. No, perché uno è Gianni Agarogna e l'altro si inneggiava un assassino. Ma se non lo c'entra? Capite. Come che c'entra? È un assassino. Quello che ha sparato, certo che è a Speziale, dopodiché... Allora, siccome il diritto prevede prevede pene diverse in base al crimine che commetti, diverso è un assassino da una persona condannata con sentenza definitiva per frode fiscale. Allora, siccome lo capisce chiunque, no, che ma è diverso, il principio è lo stesso. No, ma che significa il principio? Il principio è lo stesso. Andare sotto il tribunale per non è lo protestando stesso per una ma sentenza definitiva. Ma sono colori diversi. È un signore, ma ho capito, c'entra? Ma che vuol dire? Ma uno è un assassino, ma ci sarà la differenza tra un assassino Fai e un bancarottiere? Ancora. È un frodatore fiscale. Certo che c'è differenza. E allora basta. Renzo? Sì, Bruno. Ma chi è l'applauso questo? Ai poliziotti? L'applauso ai poliziotti? Che non ha la stessa valenza? L'applauso ai poliziotti fatti dal sindacato autonomo. È come metterci una maglietta, no? SAP. È come metterci una maglietta. Infatti ho detto che è di una gravità. Infatti ho detto che è molto grave. Vabbè, ma la discriminante qual è? L'assassino invece della frode? Ho detto che è gravissimo, che un pezzo dello Stato. Ma rimandate sì, certo, in onda quello che ho detto l'altra volta. Perché Gigino si chiama Carogna. Mentre quelli sono poliziotti. E infatti io ho detto che mi stupì, io l'unico, quindi, perché Cruciani mi ha attaccato, mi stupivo del fatto che un pezzo dello Stato, e l'ho ritenuto gravissimo, perché dalla Carogna uno si aspetta queste nefandezze, è una Carogna, uno si chiama la Carogna, mica l'Orsoline. Perché io volevo la stessa solidarietà alla moglie del commissario, alla mamma del ragazzo ucciso. Vabbè, quello è un altro discorso. Questo è un altro tema. Io ho detto che è diverso la maglietta indossata da quel personaggio lì nel contesto dello stadio inneggiando un criminale da una manifestazione discutibile sotto un palazzo di giustizia. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, no, ma poi invece s'appoggia, no, s'appoggia proprio addosso a me. Bisex, come state? Chi era questo qua? Il mitico coso? Il mitico Isotta, forse il mitico Isotta. Ah, no? Sì, Paolo Isotta, grande. Dobbiamo rimandare quello che ha detto Paolo Isotta, una cosa pazzesca qua la Zanzara. Critico musicale Corriere della Sera, cioè non è che dici bumbu qualunque. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe. Sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Questo era Crocetta, invece. No, era Isotta, questo era Isotta per davvero. Ah, pensavo fosse Crocetta. C'è Antonio da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Prego. No, io volevo solo dire una cosa, non ho seguito la trasmissione, sinceramente questo. Antonio, si sente poco, Franco da Sassari. Oh, ciao Giuseppe, pronto? Dimmi, senti, dimmi, dai. Ehi, ciao Giuseppe, ascolta, io volevo ricordare l'ipico scontro ieri di Parenzo alla gabbia con gli economisti, insomma. Giuseppe, non ce lo devi mandare in queste trasmissioni. Ma non è che comando io, lo fa il cazzo che vuole. Ma manda lui, scusa. No, lo leghi, perché Parenzo d'economia non ne capisce nulla. Vabbè. Ha fatto la figura del cioccolataio. Questo fine, lo dice lei? Dopo che l'ha messo, sì, la questo figura lo dice del cioccolataio. Lei. Questo lo dice lei? mi sembrava Nosferatu, l'avevano sbiancato quando Priatore l'ha attaccato, è diventato bianco. Se, te lo ricordi, ma Nosferatu? Francamente non mi è sembrato così. Ho ricordato all'amico Priatoni che veniva a spiegarci tutto dell'economia. Gli ho detto: lei è uno di quelli che però investe all'estero, capito? Anziché aprire quei bellissimi villaggi turistici in Sicilia, lui legittimamente le investe all'estero. Questo ho detto. Mi sai dire quali sono le colonne portanti dell'economia? Sono quattro. Ma che mi fa? Ma adesso. I fattori della produzione. Sì, va bene. Senta, non è. Sì, ho capito, Franco, però. Terra, capitale, lavoro, sì. Organizzazione, questa è la colonna portante. E allora? Come che io, e come che un medico non mi sappia dire che cos'è l'aspirina? Non è un medico. E poi? Ma cosa c'entra? Scusi, cosa c'entra? Come cosa c'entra? Se uno non conosce almeno la BC dell'economia, non può andare in questo. Ma stavamo parlando di un'altra cosa. Stavo parlando del fatto. Stavo facendo una critica al signor Priatoni, che è un grande imprenditore, ma ha deciso giustamente di investire a Sharm el Sheikh anziché in Sicilia. La convenienza è la base, l'economia. Ah, come cosa? Questo l'organizzazione, lo sappiamo. Uno va e investe dove, se diciamo, costa meno. Non si può fare niente. Va bene, Pasquale da Salerno, grazie. Pasquale? La lambretta che è? Pasquale? Sì, pronto? Dai, dimmi, su. Pronto? Pasquale? Vabbè, Mauro, provincia di Rovigo, dai. Buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi. Io desideravo farle una domanda. Mi risparmi però il dispiacere di ascoltare la voce del suo secondo, perché non lo sopporto. Sì. Eccoci qua, salve. No, stia zitto per piacere, perché sto parlando con Cruciani, non con lei. Stia zitto, lo dice ai suoi familiari più stretti. Stia zitto lei, io non sto zitto per niente. Io non sto zitto. Lei è un cretino. A chi non ha delle. Io non sono un comunista. Lei ha bisogno di aiuto. Lei ha intellettualmente bisogno di aiuto. Lei ha bisogno, e io parlo finché mi pare. Lei non sa fare giornalista. E che va, questo è il suo parere. Stia zitto, perché la domanda l'ho fatta a Cruciale e non a lei. E io subito stia per farla arrabbiare intervengo. La sua vergognosa voce. E io invece per farla arrabbiare intervengo. E io invece per farla. Stia zitto, si vergogni. E invece date il faccio alle si vergogni lei che telefona nonostante l'unico neurone. Si vergogni lei. Comunista la dice alla sua famiglia più stretta. Comunista, raccomandato lo dice, raccomandato lo dice a sua sorella e anche a suo fratello. Lei è inutile in quella trasmissione. È inutile. Lei riceverà una nota dal mio avvocato, causa per diffamazione. Ha chiuso. Quanto è bello quando chiude. Antonio da Chieti. Antonio, Parenzo, se vai avanti così è una vergogna. Sì. Devi denunciare tutti. Ma infatti scherzo, dico, non ho mai denunciato. Ma infatti l'intelligentone, non ho mai querelato nessuno. Non mi parlare sopra. Infatti non ho mai querelato nessuno. Sei una persona gonfiata, scorregge. Tu eccolo sei una persona come si chiama lei? Scorregge. Come si chiama lei? L'hai capito? Come si chiama lei? Antonio. Capito? Antonio, benissimo. Antonio. Avvocato, scusami. Generale. Prendiamo la generalità, subito. Generalità. Mamma avvocato. Mia, falla finita. Generalità di sei questo. Pesante. Generalità. Sei pesante. Non, generalità di questo. Nome, cognome, dove nascita. Nato a? Forza. Nato a? Forza. A Chieti, dove è nato lei, Antonio? Nato a Chieti, benissimo. Che cosa? Che vuoi? Benissimo. Generalità. Nato a Chieti, il? Benissimo. Allora. Residente in via, notifichiamo subito. Sì. Ecco il timbro dell'avvocatura, perfetto, e lo spediamo. Ottimo. Nato a Chieti. Contento? Oh, le arriva una bella notificazione. Sì, ottimo. Va bene, dai, benissimo. Vai avanti. Allora, Antonio. Avanti, su, Antonio. Vai avanti. No, continui lei, così mettiamo altri capi di imputazione. Vado avanti. Allora. Io dico questo, poi non avete capito un'altra cosa, sì, non cosa? Avete capito un'altra cosa, sì. Che questa trasmissione non la fate voi due, no. La fanno, la trasmissione la fa chi telefona, sì. Capito? A voglia che dite cambiate canale, se non ti sta bene cambia radio. No, cambi farmaci, no, lei intanto. No, prima di cambiare radio, lei cambi farmaci intanto. Questa trasmissione la facciamo noi, l'hai capito o no? Tu sì. Sei uno zimpello che sta lì, non sai che cosa devi fare. Pronto? Pronto? Fraccaro, mi scusi, sono Cruciani, ti disturbo? Prego, mi dica. Ciao. No, ci diamo del lei, scusami se... No, volevo capire questa cosa qua della mano, no? Volevo che la spiegassi definitivamente, della mano della cosa, scusami se te lo chiedo. scritto tutto. No, ma spiegamela a voce qui alla radio, perché sto cercando tutta la giornata, non so perché non rispondeva al telefono, allora ti sto chiamando qui in diretta, scusami. Allora, la questione è questa, ti ha appoggiato la mano lì, però tu hai fatto subito dopo quasi un cenno di schifo, sì, o no? Di pulizia. Scusami se te lo chiedo. Ma guarda, mi fa ridere perché non è dal mio punto di vista non è assolutamente collegata a cosa. Stavo pensando a quello che stava dicendo, è stata una cosa proprio automatica, ma non perché mi avesse toccato, non c'era proprio nessun gesto di schifo, eccetera. Avevo qualche dubbio su quello che stava dicendo. Vabbè, quello è normale. Però ed no, è stato utilizzato in questo modo, però effettivamente può essere strumentalizzabile, non strumentalizzato perché siamo in campagna elettorale. Il messaggio che stavo cercando di dire non è passato perché hanno fatto vedere solo quella cosa lì, mi dispiace per questo. No, ma non c'era nessuna intenzione di... Cioè, di scusami, Corrado Augias, che tu conosci bene, immagino, no? Uno che certamente ce l'ha col Movimento 5 Stelle, dunque parte un po' prevenuto, diciamo. Dice: Grillino Fraccaro sfiorato da Scivati durante discussione si pulisce platealmente la manica. Ma che diamine, i talebani sono già qui, cioè ti ha dato del talebano, capito, signor? L'ho visto il tweet. Hanno strumentalizzato questa cosa, invece non hanno commentato il messaggio vero che stavo cercando di comunicare nei confronti di Scivati, con cui ho parlato prima e dopo. Quindi non c'è, cioè, non ti sei pulito. Bravissimo, mi sono pulito, ma non perché mi ha toccato. E perché ti sei pulito subito dopo? Scusa, è strana sta cosa. Cioè, hai visto qualcosa di sporco sulla giacca, una macchia, una forfora? Cosa hai visto sulla giacca? Sai, è come quando ti toccano le mani e tu ti guardi le mani, no? E mi sono spolverato la giacca, ma però è proprio una cosa banalissima. Cioè, perché ti dà fastidio quando qualcuno ti tocca? No, magari è un tuo tic. Mi sono spolverato la giacca. No, però è sembrato talmente collegato alla mano che ti ha messo lì, che uno dice, vabbè, quello mi ha messo la mano qui e dunque faccio così perché... Ma non era collegato alla persona di Scivati, questo voglio dire. Assolutamente, ma ridere perché... No, ma è una cosa da ridere, infatti... No, mi viene da ridere perché l'ho rivisto, effettivamente... Ecco, effettivamente uno può dire, sembra questo, ma non c'era nella mia intenzione, quindi... assolutamente lontano da questa cosa, non è la mia, non, cioè, fa parte, non hai fatto corde, come Berlusconi con, non hai fatto come Berlusconi con la sedia di traglio. Se l'avessi voluto fare l'avrei anche rivendicato, perché io sono quello, io ho detto pubblicamente ladri e parlamentari di Parlamento, non ho paura di fare quello in cui credo e rivendicarlo, non c'entrava nulla questa cosa. È che secondo me tu hai un piccolo tic che magari riguarda molte persone, che quando ti toccano qua da qualche parte automaticamente fai così perché sei un po' schifiltoso. Magari sì, ma mica è una, come mica, quelli che si lavano sempre le mani, no? Mica dopo aver mica dato dato dal delinquente, cioè. Se volete divertirvi su questa cosa, invece il concetto che avevo espresso era interessante, quindi io invito tutti a guardarsi l'intera puntata e non fermarsi su questa cosa che è stata strumentalizzata e magari criticarmi se vogliono sul contenuto, perché non c'era nessuna forma o atteggiamento formale ostile a Scivati, ma era solo una questione politica, l'ho cercato di dire a voce e non con delle gestualità che non mi appartengono. Però qui leggo da qualche parte, magari sono delle cose che non sono collegate. Sì, comunque. Scivati mi ha toccato, ha usato strofinarmi la giacca con la mano. Ah no, questa qua è una cosa ironica. Vabbè, grazie fracaro, grazie. Saluti, ciao. La zanzara. Vabbè, ci crediamo o no? Ci possiamo credere, no? O no? Oh. Che devi fare? Stavo riflettendo. Secondo me gli è scappata. Cioè, gli è scappato il gesto. Cioè, non è una cosa di schifo. Si pulisce dopo che secondo me sfiora, gli è scappato ironicamente questa cosa. Poi dopo ci ha un po' ripensato e l'ha giustificata così. Secondo me. Ma secondo me non era collegato al fatto di Scivati. Cioè, era collegato al fatto che magari è fissato. No, è fissato col pulirsi quando uno lo tocca. Sì, ma c'è gente così. C'è gente che tu ti tocco e subito fai così perché sembra che. No. Non credo. Sì, questo. Come no? Beh, no, ci sono persone sicuramente, però non mi è sembrato il tipo. Pieno di persone che hanno i tic della pulizia. Io no, per esempio. Io l'altro giorno ho incontrato la signora, te la ricordi? Quella che conduceva il programma l'anno scorso, quelli che il calcio, come si chiama? La signora Cabello, la signora Cabello. Ah, Victoria con Cabello. Con cui abbiamo, siamo intrattenuti in discorso quante docce ti fai. Perché hai avuto una storia tu con la Cabello? Ma assolutamente no. Chiedo, ma perché? Ma sei il solito, ma assolutamente. Perché ogni donna che incontro mi dice, ma io sai che sono stata con Cruciani. Ogni volta, non, ma non è vero. Caricati a Bergamo, a Piazza Armerina. Ogni volta dice, ah, ciao Parenzo, si batte con me. Ma Cruciani dico, perché lo conosce? Io abbiamo avuto una storia, uno stronzo. Tutte le volte. In ogni parte d'Italia, in ogni dove. Sei un cretino. No, non è così. Vai, volevo... A Cruciani, ha decaduto. Giulia da Roma, dai. Giulia. Perché? Giulia. Eccomi. Vai. Eccomi, niente, volevo intervenire a proposito dell'espressione della signora Ripa. Ripa di Meana. Ripa di Meana. Sì. Che ce l'ha tanto con i stranieri. Allora, premetto che io sono polacca, che vivo in Italia quasi da 20 anni. Settembre, 3 settembre faccio 20 anni. Mio compagno è peruviano. E guardi, diventa abbastanza pesante e antipatico sentire ogni volta che noi stranieri siamo colpevoli di tutte di tutti gli infortuni dell'Italia. E cioè, dunque? Non siamo tutti ladri e puttane, siamo anche la gente onesta che lavora, che paga i contributi, che paga vabbè, le tasse. Ma stiamo parlando di Marina quindi... Ripa di Meana, Giulia, ma di che stiamo parlando? Signora Marina Ripa di Meana. Che vuol dire? Che è l'ultima roba che non vuole l'invasione degli stranieri. Ci stiamo parlando come no, fosse... ma non vuole l'invasione degli stranieri, sarà un suo delitto. L'invasione... Dice che sono sì, ma dice qua, che sono ma troppi, che... ma saranno cazzi suoi o no? E io sono libero di argomentare con la signora Marina Ripa, quanto tempo no, ci no, però prendi? Mi segnalano una cosa. Sì. Ricordare a David che ha osannato più volte Sofri e che l'accusa di Sofri è uguale a quella di Speziale, eppure tu vuoi la revisione del processo per Sofri, volevi, capito, hai sostenuto, un signore mi scrive, un amico, puoi sì. ricordare a David che lui ha osannato Sofri sempre. E che l'accusa di Sofri è uguale sempre. A quella di Speziale? Sofri, amico mio, certo. Amico mio, no, cosa c'entra? Pasquale da Salerno. È la stessa cosa. No, ma fammi capire che vuol dire, cioè che io avrei inneggiato a un assassino, no. Questo stanno beh, dicendo? Certo, formalmente sì, certo, non c'è dubbio. Allora, formalmente Sofri sì. Per quel delitto che a mio avviso non ha commesso, perché non lo ha commesso che lui, vuol dire? Mandante, che vuol dire? Perché non l'ha commesso lui. Ma che c'è da secondo te? Ha pagato Sofri, ha pagato. E non è la stessa, perché stai paragonando Sofri alla Carogna? No, non è la Carogna, gli anni speciale. Gli anni 70 vergognati, Pasquale da vergogna Salerno. Vergogna voi che rimettete sul banco di guardia uno dei più grandi intellettuali italiani, ma peraltro, che Adriano Sofri. Mamma mia. Dimmi, Pasquale. Allora, io volevo dire una cosa sui gay. Scusate se arrivo un po' in ritardo. No, ma dobbiamo chiudere qua. Pasquale, ci sentiamo domani purtroppo. Insieme a Nicolò e Massimo. In chiusura quello che accade sì, che suona il telefono, il tuo. Quello ma che accade ti telefona durante... Fammi rispondere a me, scusa. Quello che accade a quando con un numero privato si raggiunge il telefono di Emilio Fede. Ciao, a domani. Sì, pronto. Direttore sì. Fede? Dica. Ma parlo proprio col direttore, dico. No, guardi, no. Direttore Emilio Fede. Ma si sta sbagliando, ma comunque sono... No, ma è la sua voce, direttore, è lei direttore. No, lei è... ma scusi. Direttore. Alla mamma che fa i pompini? Direttore, ma che belle parole! Il figlio di quella troia che batte i marciapiedi in piazza Euclide? Beh, non è piazza Euclide però, eh? Non è piazza Euclide. No. Senta, direttore, ma è proprio lei! Fa un culo tu, pezzo di merda. Grazie, direttore. Avete finito? Hai finito? No, Fede? Senti, vai a dare del culo, tu e i comunisti di merda come te, capito? Hai capito sì o no? Ma è Fede? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vaffanculo! Radio 24. La passione si sente.